24 mattino. Buongiorno, eccoci qui, entriamo nella parte fuochi d'artificio perché al mio fianco, qui di fronte a me, parato con la sua barba e i suoi baffi, è arrivato il gattone. Giannino. Allora Oscar, sai che tengo sempre, io vorrei, sono geloso delle notizie importanti, però tengo la migliore per te. Ebbene, oggi sul Libero Melania Rizzoli, parlamentare della Repubblica, ci regala questa grande notizia. Evviva, tornano i peli sul Monte di Venere. Io vi prometto pilu e prosperità, e cioè più pilu per tutti. Vabbè, mai così appropriato. Allora, perché dice la Rizzoli, The Wire ha parlato di rinascimento del pelo e il Guardian ha dichiarato il 2016 sarà l'anno del cespuglio. Potevamo sopravvivere senza no, sapere. Guarda, temo di no, poi apprendiamo anche che ci sono calciatori che saltano i turni perché non possono andare in campo perché facendosi le cerette si provano delle infezioni nei punti delicati. È avvenuto, io l'ho letto sui giornali, quindi che vuoi dire? Ma no, solo capire qual è la tua posizione. La mia avrai posizione. Una posizione, sì, io sono per così dire contro l'abbattimento delle foreste per traslato penso che siano una parte viva dell'ecosistema. 349-238-6666 per i vostri messaggi sempre puntuali, interessanti, alcuni casi anche pungenti. 800-24-0024 è sempre attivo, lo dico all'ascoltatrice che diceva non funziona più. No, funziona, puoi chiamare quando vuoi sempre. E noi chiamiamo la dama della mattina, oggi impegnata, in questi giorni impegnata in una grande campagna moralizzatrice su cui vogliamo discutere, Mirta Merlino. Buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Eccoti qua. Allora, ci interessava capire qual è la tua posizione, perché odio all'odio hai inaugurato il tuo programma chiamando i politici a confrontarsi su un tema, il no agli insulti sul web. Sì, insomma, moralizzatrice no, nel senso che non è un'idea moralizzatrice, è un'idea di civiltà, secondo me. Cioè, quello che io trovo incredibile è che è passata l'idea che sulla rete è come se ci fosse un altrove in cui tutto è permesso, in cui non ci sono regole, in cui non c'è rispetto per l'altro, ed è una violenza, è un'aggressività quella che circola, che cominciano a farmi paura, ma non per noi, perché naturalmente tutte le persone che hanno più o meno un lavoro pubblico sono bersagliate da ogni tipo di orrore e schifezza. Il problema è tutta la gente che non riesce a difendersi, non ha gli strumenti per difendersi. Penso agli adolescenti che ormai vivono attaccati ai social. Ho capito, ma come pensi che si possa regolamentare? Censurando, fermando, bloccando? Allora, per quanto riguarda noi, la cosa che abbiamo pensato è molto semplice, e cioè quella di denunciare, di mostrare, cioè tutte le volte che ci sono tweet, post particolarmente odiosi, li facciamo vedere in trasmissione, ne parliamo. In questi ultimi giorni ne ho mostrati decine, quasi sempre questi post, questi tweet sono stati rimossi, in alcuni casi sono richiusi gli account. Cioè io ho la sensazione che c'è una grande vigliaccheria in questa attività degli odiatori, degli haters. Fai un esempio così capiamo di cosa parliamo, uno di questi che ti ha, come dire, turbato di più? Allora, beh, io ho fatto il primo giorno di trasmissione, lunedì ho aperto con Laura Boldrini e devo dire che, insomma, leggendo i meno peggio, perché naturalmente essendo anche noi la mattina in fascia protetta non possiamo esagerare, è stata veramente un viaggio nell'orrore, cioè sia sullo stupro di Rimini che sullo stupro dei carabinieri a Firenze si è raggiunti delle vette di orrore senza pari e sui quali la Boldrini veniva tirata dentro nei modi più incredibili. Però non so come dirti, l'altro ieri mattina parlavamo in studio della campagna Odio l'Odio e a un certo punto arriva un tweet, tra l'altro che io non vedo, lo vedo un mio ospite, c'era cioè in studio Ernesto Carbone, e questo tweet mi riguardava, di questa Paola Azzoni, e diceva: merdino maledetta, merdino sarei io, prego sempre per un tumore terribile ai tuoi figli bastardi. Ora, io mi chiedo, può una mente umana concepire un insulto di questo genere? Tu puoi non essere d'accordo con me, puoi pensare che sono di parte, puoi pensare che faccio male il mio lavoro, puoi dirmi qualunque errore, ma puoi dire una cosa del genere. Però questa Paola Azzoni è sparita. Io ho cominciato a dire a Paola Azzoni: vieni in trasmissione, parliamo, spiegaci perché hai scritto questa frase. E all'improvviso Paola Azzoni è sparita dai social. I miei redattori che stanno lavorando su questa idea e stanno provando anche a cercare le persone che fanno tweet di un certo tipo, mi dicono che hanno fatto una serie di ricerche e di verifiche e pare che questa Paola Azzoni sia un fake. Allora, uno dei problemi principali naturalmente è l'anonimato. Cioè, io mi chiedo, se io, te, Oscar, chiunque di noi dice una parola sbagliata, fa un'affermazione sbagliata o anche non sbagliata, ma che viene considerata offensiva da qualcuno, ci mettiamo la faccia, paghiamo dazio, arriva una querela, io finisco continuamente in tribunale a difendermi, fortunatamente fino adesso. Molto chiaro, dici questi non hanno la faccia, sono fantasmi. Oscar. Esatto, sono incappucciati. No, io dico solo una cosa, cioè, a me piace l'idea di dire alla gente: guardate, non vi potete nascondere dietro l'anonimato, sì. Però quello che avverto come un sottile malessere è questo. Non la tua campagna, io dico in generale i politici si svegliano, i politici, parlo di loro, non noi giornalisti, perché ne vediamo di ogni su di noi, ma i politici si svegliano perché non sopportano questo trattamento riservato a loro. Io allora ti faccio una brevissima considerazione. Io mi sono beccato per gli anni recenti fior di insulti sanguinosi delle maggiori trasmissioni televisive da esponenti del centrodestra, anche nella tua, a cui i colleghi non hanno mai ribattuto, dove diceva che ero da codice penale sulla faccenda dei vitalizi dei parlamentari. E tanto avevo ragione io e torto il figuro politico che poi si lamenta del web, che animava la sua campagna di odio, che infatti poi è passata una legge alla Camera, poi non la approveranno al Senato, ma perché ho due volte ragione io e non una lui. Allora, a me questa storia che i politici invocano contro gli altri quello che invece fanno loro, mi fa, te lo dico fuori dai denti, perché sono stato vittima di questa roba, e i colleghi mi dicevano: ma sai, io come faccio a dirgli? Bene, allora, però il politico che è lui il seminatore di odio, è lui l'insultatore di professione bieco col suo sorrisetto stampato, lui è peggio di chi non sa misurare le sue reazioni. Ah, ecco, perché altrimenti qua ci dimentichiamo. L'odio in questo paese è stato disseminato da chi? Dall'alto. Va bene, i social media sono una specie di tappo psicologico, però io ti chiedo, sei d'accordo o no che i politici per primi hanno questa bella responsabilità, visto che in televisione, quando non sono d'accordo, dicono: quello è un bugiardo matricola, è un delinquente. Io sono stato dipinto come un delinquente. Beh, insomma. Allora, vorrei aggiungere solo una cosa, Mirta, così poi ti liberiamo. Io non sono convinto che la via sia la repressione. Mi piace molto il tuo uso pedagogico, vieni, spiega e scoprire che scompaiono. Anch'io quello li inseguo, fare. Li scrivo, quelli che ci insultano mi fanno quasi piacere. Non sono convinto se invece poi bisogna pensare che si entra in uno spazio penale, giuridico, repressivo, perché allora, il cretino, no, solo questo, il social avvicina le intelligenze ma avvicina anche i cretini. E questo non ci possiamo fare nulla. Non è che c'è una manetta che ti salva dal cretino. Scrive un nostro ascoltatore: si chiamano leoni da tastiera. No, prego, non c'è dubbio, ma volevo rispondere un attimo a Oscar, perché sono perfettamente d'accordo con lui. Io non penso. Iniziativa importantissima, bravissima Mirta. Vedi come siamo idee diverse. Non credo che siano i social a produrre un messaggio, era l'odio. Io penso che i social lo propagano e penso che ha ragione lui, cioè è ovvio che questo è un tema della classe dirigente, è ovvio che ci sono dei cattivi maestri su questo tema, è ovvio che se noi cominciamo a sdoganare l'insulto libero, questa cosa poi piano piano diventa virale. La mia preoccupazione è un'altra, Oscar, cioè non ne sono i politici che stanno lì a difendere la loro onorabilità dai tweet di insulti, la mia preoccupazione è che invece questa roba poi arriva sulle persone più fragili. Io ho tre figli adolescenti, mia figlia ha 16 anni, certo. Se a mia figlia la riempiono di insulti sul web, io spengo Twitter e me ne frego. Per una ragazzina è un problema serio, questo riguarda gli omosessuali, bene, questo, bene. Questo riguarda, cioè, alcune ci donne, sono ragazzi e ragazze, riguarda il bullismo, si levano la vita. Allora, il nostro problema è questo, il nostro problema è che questa ondata di odio non arrivi addosso a chi non è in grado di difendersi e non li travolga. Per quanto riguarda il tema, diciamo, insomma, vietare o non vietare, è ovvio che la legge non sarà mai la cosa che può cambiare questo momento culturale. Rimane il punto che, per esempio, sul tema dell'anonimato, il fatto che ci sia nome, cognome e codice fiscale se tu stai su un social mi sembra una cosa di puro buonsenso. E soprattutto c'è un tema appunto di cultura. Cioè, se noi facciamo finta di niente e pensiamo che è normale, io ho la sensazione che piano piano questi toni e questo odio trasmigrerà dalla rete altrove. Quindi fermarsi e dire: oh, ma che stai dicendo? Chi sei? Perché parli così? E provare a stanarli, anche perché tutte le volte che provi a stanarli, quasi sempre, cambiano i toni, perché quella è ormai una deriva di abitudine. Cioè, io sparo a zero, dico cose impronunciabili, irripetibili e non mi succede niente. Bisogna pensare che cominciano a succedere delle cose, perché sennò, insomma, se non paghi mai dazio, se viene meno il concetto della responsabilità, cioè per secoli, no, nell'era Gutenberg, abbiamo pensato che quello che dicevi era una cosa che contava, non è che nell'era Zuckerberg possiamo pensare che all'improvviso tutto quello che si dice poi non c'è nulla, perché sennò viviamo in un mondo di mostri a un certo punto. Mirta, con questo passaggio dall'era Gutenberg a quella Zuckerberg hai già conquistato la gloria della mattina. Tu sei, come ti svegli la mattina? Perché se ti vediamo molto tonica ti sentiamo, ti svegli presto, sei attivista? Sì, quello per forza, leggo molti giornali, faccio una bella colazione. Io ho temuto che stesse arrivando una battuta: ti svegli tardi o tardelli, ma per fortuna l'hai evitata. Ecco. No, dai. Ho temuto? Ma è vergognoso, Mirta. Ecco dietro l'anonimato. No. Voleva farla lui e ha detto che avrei voluto farla io. No, ma dillo, no, che è una battuta sulla punta della lingua. Sei da denuncia, sono tardi o tardelli. È un'allusione alla libertà sentimentale della nostra interlocutrice che tu non devi invadere. Ma non l'ho invasa, sono stato un ironico gentleman, ma ci mancherebbe altro. Ironico, no, ma dai. Comunque, io avrei capito, Mirta, che la mia cosa è: sì, impegniamoci per primi, però volgarità. Quando abbiamo i politici ospiti, e molti di loro vanno oltre il segno, ma proprio molti della civiltà, e a quel punto danno a tutti l'idea che il dibattito pubblico può essere così, dire: se signor politico, lei quel tono qui. Lei lo usi dove vuole, ma qui, siccome sono parlato di casa, io non, da qui non lo può usare. Ecco, tutto qua. Ciao, sono Mirta. Perfettamente d'accordo. Ciao. Grazie. A tutti. Buona giornata. Torniamo fra poco con il re degli opinionisti no global, che adesso si chiama Tremonti. Fra poco. State ascoltando un programma offerto da 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Mattino. Cani e gatti, e siamo qui con Oscar Giannino, a cui lancio il primo guanto di sfida. Ma insomma, c'è Beppe Grillo che va in giro con la sacca di sangue e dice: donate qualche lira ai 5 Stelle perché sono con le casse vuote. Ci sta la Lega con l'ordine di pignoramento sui conti correnti delle leghe nazionali che rischia di andare in bancarotta. C'è il PD che è con la cassa integrazione, lo ricordiamo, e con le feste dell'unità che perdono anziché guadagnare. Io non vorrei che non... cioè non vorrei, voglio portarla proprio così. Qua è il momento con intelligenza di capire che o si ridà un po' di finanziamento democratico, pubblico, legato al consenso ai partiti, oppure li troveremo a rubare. Li troveremo? Cioè, oppure... cioè, la tua chiusa è tragica, perché oppure li troveremo a rubare, come dice, li stiamo costringendo a una cosa mai vista nella storia della Repubblica. Io non voglio fare il qualunquista, Luca, però capisci che ti sei fregato. No, insomma, sei un po' conquista. Ma ricordati che eri il leader dei giovani repubblicani, certo, in un'altra vita. Ricordatelo, Oscar, eri la quintessenza della Repubblica dei partiti. Ricordo che Ugo Lamalfa, lui, prima del discorso di Craxi, eccetera, eccetera, si alzò in Parlamento sullo scandalo Petroli, assumendosi la responsabilità e dicendo: sì, in questo sistema dei partiti io devo prendere soldi anche illegali. Capisci? E questo è il punto. Quindi, purtroppo il sistema dei partiti... No al finanziamento. No al finanziamento, io resto all'idea espressa dagli italiani in un referendum. ci vuole trasparenza assoluta e i partiti dichiarino da chi si fanno finanziare le loro idee, cioè dagli interessi vestiti. Perché siccome hanno detto che adesso lo abolivano, col governo Letta lo sai, c'è una riforma ad anni per l'abolizione, bene, adesso ci facciano chiarezza anche sui soldi delle fondazioni dei partiti, su cui invece c'è totale opacità, perché hanno rubato sempre, prima, dopo, durante. Ci metto il carico, sono favorevole anche al vitalizio, forma democratica, no. In forma contenuta, come ora, 700 euro di vitalizio. Ma stiamo parlando del ricalcolo di quelli precedenti. Della zanzara, quelli più ma lumpen, lascia perdere, non che capisco come tu possa difendere. Ma perché quelli non precedenti ce l'abbiamo per i 25 riforma? Milioni di euro in liquidazione ai manager che fanno fallire? Ma perché un'altra questione, io posso benissimo incazzarmi anche per quello. Le loro società. Ma ci mancherebbe altro. Però il punto è, come ho ripetuto anche ieri sul Mattino e così via, io sono favorevole al ricalcolo degli ex vitalizi perché voglio l'operazione Boeri sugli 11 fondi speciali delle pensioni retributive, anche del privato, che non significa ricalcolare tutte col contributivo, ricalcolare oltre una certa soglia, oltre i 5.000 euro, ricalcolare con un contributo di solidarietà. Sì, chiunque voglia leggere vada sul sito INPS, cerchi il documento non per equità ma per cassa e capisca che l'intervento e il ricalcolo dei vitalizi ex parlamentari è una forma di equità intergenerazionale. Di lì si risparmiano 150 milioni di euro. Però se lo si fa anche per i privati troppo privilegiati dei retributivi. Sì, però difendiamo l'idea che la politica in Parlamento la devono fare le persone qualificate, i professionisti che hanno un'attività che se vanno dopo 5 anni trovano lo studio vuoto senza neanche un cliente e non la devono fare solo i portaborse, i lobbisti e i galoppini di partito. Ma è l'idea che la debbano fare solo i portaborse l'idea che gli si debba privilegiare della pensione rispetto ai cittadini normali? Perché esempio, il professionista se fa politica, se gli dai una pensione per gli anni da parlamentare uguale come sistema di calcolo in tutto e per tutto a quello di noi poveri cittadini normali, e mica lo trovi a piangere a non fare la politica. Quindi attento Luca, perché stai difendendo secondo me nella libertà la d'opinione casta. No, dillo, la no casta. Un'idea che loro propagano che è infondata, è ingiusta, e dire no al ricalcolo degli ex vitalizi, come dice Cesare Damiano, perché lui è onesto e sincero, lo dice apertamente, non si nasconda come tante altre, è la maniera per impedire un'operazione di equità tra generazioni anche con ricalcolo di privilegiati privati. Abbiamo al telefono Giulio Tremonti, buongiorno, l'uomo buongiorno. Del Rinascimento italiano, oggi tutti e due gli autori in momenti separati sono autori di questo libro che è un pamphlet, è un racconto dell'Italia ed è anche un auspicio. Allora ci racconta professore il senso di questo libro, della sua parte del libro ovviamente. Ma dunque l'impressione che noi abbiamo in questo momento, sia pure diversi, è una immagine, abbiamo le condizioni del Medioevo e della decadenza. Il Medioevo è stata una fase nella quale l'uomo viveva come dire, scisso verso l'alto, verticalizzato, tutto era sopra la luce, nella chiesa, nel divino, e sotto era il buio, si ignorava la natura. Nella natura c'era tutto un sistema di vincoli, di blocchi, di superstizioni, e questo era il Medioevo nel senso negativo. Naturalmente c'erano anche i conventi, le cattedrali, l'umanesimo, principiava la logica, ma fondamentalmente era un mondo scisso, tutto era sopra e quasi niente, o meglio una specie di blocco, di buio era sotto. E in che senso oggi come allora? Per esempio, faccio l'esempio, se uno guarda Marx e il Manifesto, c'è scritto nostalgia, è scritto contro le libertà borghesi, contro la modernità, era nostalgia per l'antico mondo di vincoli feudali. Ebbene, noi viviamo in un Medioevo in questi termini, cioè dire una infinita quantità di regole totalmente prive di senso, dove non è il diritto ma il rovescio, un eccesso. Medioevo era neofeudalesimo. No, il feudalesimo era il dominio dei vescovi, dei... No, è proprio una quantità infinita di blocchi. Vuole vedere adesso? Noi abbiamo ogni anno 12 chilometri di leggi in Italia, in Europa sono solo 9 chilometri di nuove regole ogni anno. Si dice il Parlamento sta finendo, e questo ci impedisce la gioia di ricevere 63 nuove leggi. E io vedo in Senato adesso discussione sulla legge comunitaria. Oggetto è l'anagrafe equina, nuove norme sugli ascensori, nuove norme sui caseinati, che credo abbiano a che vedere col formaggio. Ecco, medioevo in questi termini, e cioè dire, ed è la grande questione, secondo me, quello che manca nel il dibattito adesso è molto importante, quello politico, quello che si fa, però è sempre sui particolari, mai sui generali. Il movimento deve essere logico, politico, scientifico, è così, è dal generale verso il particolare, non dal particolare verso il generale. Però allora, posso fare una domanda proprio in coerenza a quello che ha detto? La nostalgia fortissima, sempre più forte in questi anni di crisi, si è visto a destra come a sinistra, nei diversi grandi paesi europei, soprattutto in quelli più toccati dalla crisi, è esplosa la nostalgia dello Stato nazionale, della sua capacità di identificare nei confini fisici, dalle Alpi alla Sicilia, il suo potere di inseguire la libertà dei capitali, di tornare a tassare nazionalmente. E soprattutto ognuno deve avere le sue regole. La domanda che le faccio è, alla luce di questa premessa che io condivido integralmente che ci ha fatto, la nostalgia così forte per lo Stato nazionale, quasi l'idea romantica, uno d'arme di lingua d'altare, di memoria, di sangue, di corpi, che ci sono anche cose che non mi piacciono di tipo etnico in molti che fanno questa rivendicazione. Però detto questo, non contraddice un po' con quello che lei ha detto? Cioè ognuno torna a dire voglio la mia bella selva di 12 chilometri l'anno di legislazione italiana? No, allora, probabilmente è il giusto mezzo, come ce l'ha Cavour, per esempio, cioè dire, non è che da un eccesso la cosa giusta è l'eccesso opposto. Allora, facciamo un discorso sull'Europa. Roma, 1957, nasce l'Unione Europea, la struttura che abbiamo comincia, ed è stati sovrani che uniscono quello che è necessario per creare quello che allora vogliono, il MEC, il mercato europeo comune, eliminano i dazi delle dogane interne, ma si riservano la sovranità legislativa sulle cose diverse e più piccole, sapendo bene che devi fare, puoi fare bene insieme le cose grosse, ma non ha senso che tu faccia tutto uguale le cose piccole. Secondo voi ha senso che il trapano di una meccanico in Danimarca sia uguale al trapano di un meccanico in Calabria? No. Ha senso che i sedili degli autobus siano uguali in tutta Europa? In America, quando hanno fatto l'America, hanno unificato le ferrovie, gli standard delle cose che le si misure, muovevano, cioè, i parametri, gli orari dei treni, non so come dire. Cioè il delirio che noi stiamo vivendo è che l'Europa non fa quello che adesso dovrebbe fare, la difesa, l'intelligence contro il terrorismo, una visione vera sull'Africa, e invece fa quello che non dovrebbe fare. Recentissimo appunto l'anagrafe equina, i caseinati e gli ascensori. Ecco, l'equilibrio è questo: tu puoi fare regole giuste a livello locale, devi fare regole giuste a livello superiore, ma non puoi. Il Trattato di Roma, come immagine, era costruito come una piramide, la base e il vertice. Adesso, dal lato unico, dalla follia europea in poi, che nega l'Europa, è esattamente il contrario, una piramide rovesciata. Si fa tutto sopra, salvo qualcosa che si dovrebbe fare sotto. Ma secondo voi... Fermare solo un secondo per la pubblicità e finiamo questo discorso e vogliamo sentire il suo parere sulla vicenda della Lega che ci ha molto colpito, anche chiede opposta e quella della Lega non può che essere preoccupato dalla forza di questo provvedimento. Una pausa della pubblicità, poi Tremonti, gli ascoltatori e Oscar e io. Ciao. Allora, rieccoci in studio, collegato con noi Giulio Tremonti e di fronte a me Oscar Giannino, che per oggi riassume, credo, una posizione condivisa. Perché ti preoccupa la sentenza sulla Lega? Ah, la sentenza, io ieri ho sentito un po' di amici costituzionalisti e giuristi perché mi era venuto un dubbio e ho fatto subito un tweet dicendo ma come si concilia la legittimità della decisione del giudice di congelare i conti di un partito, perché questa volta la condanna non è tangente, è un utilizzo improprio delle quote di rimborso elettorale, cioè di finanziamento pubblico, con quanto scrive l'articolo 49 della Costituzione, che assegna ai cittadini il pieno diritto di associarsi liberamente ai partiti e attraverso i partiti concorrere alla determinazione nazionale della politica. Sotto elezioni tu blocchi legittimamente, non è un problema che si deve porre al giudice penale, i conti di un partito, beh, inibisci di esercitare al meglio quella funzione che è l'unica in una democrazia rappresentativa, come dice l'articolo 49, attraverso cui i cittadini possono decidere la politica nazionale. Mi sono posto il problema, tre costituzionalisti mi hanno detto: guarda, non puoi pensare che sia una sentenza incostituzionale, però due su tre, perché è pienamente legittima, il giudice non si deve porre questo problema e valuta lui se fare garantire che quei soldi, bloccandoli dai conti, così ritornino allo Stato. Però due su tre mi hanno detto: in effetti il problema potrebbe sussistere, perché assumere questa misura sotto elezioni per un partito, beh, ne inibisce, ne riduce la potenzialità, a meno di credere che quel diritto affidato all'articolo 49 della Costituzione ai cittadini sia comunque tutelato, perché sono liberi anche di votare un partito che non può fare campagna elettorale. Quindi io mi limito a dire, e chiedo a Tremonti come la pensa, siccome è senza precedenti un intervento di questo tipo, non chiedo al giurista Tremonti, però la sua valutazione politica è: esiste un problema rispetto al diritto dell'articolo 49, secondo lei, o è uno scrupolo giuridico porselo? Dunque, siccome faccio l'avvocato, per la verità non conosco specificamente il caso, però mettiamola giù così. La legge dice che i partiti hanno diritto a un finanziamento. I soldi vanno a un partito che deve presentare un bilancio, tra virgolette, certificato. La mia impressione, l'ha detto adesso Oscar, credo bene, è: non è che se tu fai un uso improprio di una parte automaticamente devi perdere il tutto, puoi perdere il tutto perché il bilancio viziato per una quota è affetto da tutto. Io credo che sia stata una interpretazione sbagliata della legge, cioè dire se tu hai un diritto al finanziamento e lo strumento è il bilancio, ebbene, il diritto resta intero. Se il bilancio è a una parte sbagliata, relativamente a quella parte, ma non per il tutto. Qui credo realmente che ci sia stato un errore di diritto nel caso. Detto questo, poi tutto va giù in automatico, perché alla sentenza consegue il blocco, e questa è una cascata di fenomeni che viene nel e qui arriva la questione politica. Se anche fosse giusta la sentenza, e francamente non credo, e tra l'altro è provvisoria, certo. E tra l'altro essendo provvisoria la legge, mi pare che sia solo in primo grado, francamente una roba del genere definitiva di blocco, come se fossero in atto distrazioni continue di patrimonio, francamente mi sembra di notevole gravità. È un errore che sta generando effetti forse neanche voluti, però è un diritto fondamentale. Credo che sia incostituzionale, penso che sia grave, cioè penso che mettere fuori gioco di fatto, io qui condivido l'impianto di Salvini, è proprio una cosa pragmatica, se ti tolgo tutti i tuoi soldi, esatto, l'effetto alla vigilia di una campagna elettorale, voglio che la Lega concorra e che semmai perda, ma non sia privato per via giudiziaria. E diciamolo Luca, non è un risorse. Giudizio di merito sulla vicenda dell'epoca del tesoriere, perché molti dicono state difendendo la Lega. No, è una questione di principio generale, cosa che non essendo essi posti sulla fine della Prima Repubblica continuano a pagare da vent'anni. Per qualunque partito. Permettete, c'è anche proprio una questione, al di là che di principio, anche di merito, e cioè dire non è possibile che una cifra che per legge compete a un soggetto debba essere zampata via tutta, cancellando il diritto solo perché una quota è stata distratta. Tu devi agire sulla quota, non come se fosse affetto tutto il partito, tutto il movimento, tutto il fenomeno chiarissimo. Da quell'abuso. Chiaro. E l'effetto non sarà incostituzionale la legge, ma è incostituzionale la sua applicazione in questi termini, perché l'effetto è un limite alla libertà. Andrea da Treviso, che vuole intervenire proprio su questo. Sì, grazie a voi. Questa sentenza è una cosa mandata dal Signore. Era anni che noi aspettavamo questa sentenza contro la politica che per 20 anni ha distrutto risparmiatori, famiglie e persone. Noi siamo come comitati Parmalat allo stremo, ormai abbandonati da tutti, forse da giudici no. È una rivalsa che i risparmiatori, cittadini, gran parte italiani, hanno sulla politica che per 20 anni ha creato un enorme debito e un enorme macigno da portare per anni e anni, grazie a questi politici che prima abbiamo capito, lei va bene tutto ciò che va contro i partiti, però il nostro mestiere è tentare anche di capire volta per volta il come e il perché, se è graduato e giustificato, altrimenti sa com'è, lei finirà per battere le mani su chi li abolisce i partiti e abolisce le elezioni. Ma cioè, sì, attenzione. Partito unico. Roberto da Modena. Sì, buongiorno Giannino. Io avrei una proposta da fare. Sono contro i vitalisti, ma invece di dargli il vitalizio, perché non gli si dà un TFR e basta. Vede, loro comunque, attenzione, perché c'era anche l'indennità alla fine del rapporto c'è anche una voce che è il TFR per il rientro nella vita professionale da ex non parlamentare. Quindi lei chiede una cosa che c'è già. Non si preoccupi, non se l'erano dimenticato. Quello che io condivido è che a quel punto diamogli solo quello. Però io sono dell'idea che comunque maturino un rapporto previdenziale durante gli anni da parlamentare. Quello che mi ha sempre offeso è che fosse incalcolabilmente più privilegiato rispetto anche ai privilegiati che esistono e che voglio affrontare anche loro nel privato retributivo. Allora, Tremonti, ancora torniamo da lei prima di salutarla. L'ultima cosa che vuole dirci dopo il quadro sul nuovo Medioevo, qual è la speranza, se c'è? Allora, tornando a quel discorso, ma parlare dell'eccesso di leggi non è parlare di cose al margine, è di cose fondamentali, perché i grandi cambiamenti avvengono facendo i codici. Com'è che è il tempo del miracolo economico? Ci avevamo lo sviluppo con 4 piccoli codici di leggi. Adesso abbiamo un'infinita quantità di leggi e abbiamo la depressione e la recessione. E cioè dire tante leggi, nessuna legge. Poi succede di tutto, come gli ascoltatori dicono. In realtà la grande passaggio è tornare ai codici, fare le cose semplici. Adesso noi stiamo vedendo... Si può vedere quello che sta facendo l'Inghilterra. L'Inghilterra per uscire è costretta a importare le leggi europee, poi dopo le abrogherà, ma in questo momento sta approvando, come se fossero inglesi e non europei, 19.000 testi di legge, di regolamento, di direttiva, testi giuridici. Questo è la follia, è medioevo. Cioè dire 19.000 da 72 a oggi. Noi abbiamo anche di più perché c'erano prima del 72, ma per fortuna erano poche. Ma 19.000 testi di legge, la follia, è proprio... uno poi si chiede perché in altre parti del mondo crescono di più, noi di meno, l'America va meglio di noi, ma ci siamo chiesti che peso ha la grande questione di civiltà e di politica e di economia. È la questione del diritto. Allora... è la battaglia per il diritto, meno regole, più codici. La deselvificazione normativa. Allora, quindi tagliamo le pensioni e ripristiniamo il finanziamento dei partiti, ci chiede Vladimiro. No, mai tagliare le pensioni, non lo ripristiniamo, lo teniamo cos'è e così che è stato calcolato su base... Non so, è sembrato questo, quindi lo spieghiamo. Vedi, perché tu difendi Vitalizio dicendo io lo difendo perché voglio tagliare le pensioni. Vedi che cosa veicoli agli ascoltatori. Allora, i già svegli, i vostri messaggi in segreteria 0246 524492. Cani e gatti vi salutano, ci vediamo domani.